Col Calesse, Laura e Almanzo avevano preso verso nord perché erano voltati da quella parte quando Laura era salita. Quando infilarono Main Street, Laura scorse fugacemente un gruppo di persone schizzare via davanti ai cavalli e il viso allegro di Cap Garland che la salutava con la mano. In seguito pensò con soddisfazione che i nastri al cappello se li era cuciti lei stessa e perciò sapeva che i punti non avrebbero ceduto. Quando finalmente i cavalli si rassegnarono a un trotto veloce, Almanzo osservò: dicevano tutti che non saresti venuta. Cap invece diceva di sì. Ha scommesso? Chiese Laura. Io no, non ho scommesso, se è questo che vuoi sapere, disse Almanzo. Non faccio scommesse quando si tratta di una signora. Comunque, non ero sicuro che ti piacesse questa pariglia da circo che ho adesso. E che ne è dei puledri? Chiese Laura. Li ho venduti. Ma Lady e Prince? Esitò. Non voglio criticare questi due, ma chiedevo solo: c'è qualcosa che non va con Prince e Lady? No, stanno bene, ma Lady è gravida e Prince non lavora altrettanto bene senza di lei. Mi hanno offerto $300 per i puledri che ormai sono affiatati e ben addestrati e non puoi contare su una somma così tutti i giorni. Per questi due ne ho sborsati solo 200. Sono $100 tondi che mi sono messo in tasca. E sono sicuro che questi, una volta addestrati, li posso rivendere bene se voglio. Ci sarà da divertirsi a scozzonarli, no? Sicuro, esclamò Laura. Li faremo diventare docili, docili. Appunto, è quello che ho pensato anch'io, disse Almanzo. A proposito, il pezzato si chiama Barnum e il baio Skip. Meglio che non ci avviciniamo dove hanno fatto il picnic, se no diventano matti coi petardi. La strada correva diritta in mezzo alla prateria. E i cavalli tennero quel trotto velocissimo e scattante per miglia. Durante la notte era piovuto e in tutti gli avvallamenti erano rimaste pozze d'acqua, ma Barnum e Skip erano ben decisi a non bagnarsi le zampe. Saltavano tutte le pozzanghere e il Calesse volava dietro di loro, senza che un solo schizzo inzaccherasse il cappellino di Laura. Faceva caldo e Laura si chiedeva perché Almanzo non avesse tirato sul tettuccio. Alla fine lui disse: mi spiace, ma se tiriamo sul tettuccio questi due impazziscono e non so se riesco a tenerli. Cap e io non siamo riusciti ad attaccarli al calese finché non l'abbiamo tirato giù. E così stettero al sole, col vento della prateria che soffiava e grandi nuvole bianche che veleggiavano nel cielo azzurro. Arrivarono a Spirit Lake, ci girarono attorno e proseguirono ancora per un tratto, poi tornarono indietro per una strada diversa. Abbiamo fatto 60 miglia, disse Almanzo quando furono vicini a casa. Vedrai che ora stanno buoni mentre scendi. Ma non mi fido a scendere anch'io per aiutarti, non vorrei che mi lasciassero lì. No, scendo da sola, disse Laura. Guai se scappano. Non vuoi restare a cena? Oh, mi farebbe piacere, ma per fermarli devo essere in paese, così Cap mi aiuta a staccarli. Cerca di non muovere il tettuccio scendendo. Laura fece del suo meglio, ma appoggiandosi al montante lo scosse un poco. Barnum si impennò, Skip sgroppò e schizzarono via di volata. La domenica successiva Laura sapeva cosa aspettarsi. Fu lesta a saltare sul calesse non appena i cavalli si fermarono. Erano voltati a est, sicché filarono via in quella direzione. Dopo un po' i cavalli rallentarono e per una via traversa Almanzo li portò verso i laghi gemelli. Percorsero la strada tra i due laghi a gran velocità, ma senza impennarsi e senza scartare, e tornando verso casa presero un trotto regolare e relativamente tranquillo. Li ho fatti uscire un po' durante la settimana e forse stanno cominciando a farsi un'idea di che cosa vuol dire comportarsi come si deve, osservò Almanzo. Ma c'è meno gusto quando stanno bravi, disse Laura. Ah sì? Beh, facciamogli vedere a cosa serve il tettuccio allora. Pronta? Dai! Laura fece appena in tempo ad afferrare il braccio anteriore dalla sua parte e ad alzarlo, mentre Almanzo alzava quello dall'altra parte, poi spinse a fondo lo snodo e lo bloccò. Almanzo aveva fatto lo stesso di là. Il tettuccio era a posto. Appena in tempo! Skip scartò e Laura trasalì perché Barnum si era impennato. Le zampe anteriori raspavano l'aria sempre più in alto e il dorso massiccio era così vicino al cruscotto che sembrava dovesse rovinare all'indietro. Invece, un attimo dopo, il cavallo tornò giù con un gran balzo avanti ed eccoli schizzare via, tutti e due ventre a terra. Il tettuccio ondeggiava per la velocità della corsa e i cavalli, spaventati da quel movimento alle loro spalle, andavano sempre più veloci. Almanzo aveva le braccia rigide per lo sforzo e le redini erano tese come cavi d'acciaio. Laura si rannicchiò nel suo angolino, trattenne il fiato e sperò che non andassero a schiantarsi. Alla fine i cavalli si stancarono e tornarono al trotto. Almanzo tirò un gran sospiro di sollievo e si rilassò un poco. «C'era più gusto così?» chiese sorridendo. Laura rise, ma era un po' scossa. «Molto di più se la bardatura tiene.» «Tiene, tiene. L'ho fatta fare su ordinazione alla selleria di Schaub. Tutto cuoio della miglior qualità, rivetti doppi e filo cerato. Prima o poi questi due capiranno la differenza tra scappare e correre. Erano tutti e due dati per persi, sai?» «Davvero?» disse Laura di nuovo con un riso un po' tirato. «Già, è per questo che li ho presi per così poco. Ma basta lasciarli correre e non farsi prendere la mano. Dopo un po' capiscono che è inutile. Non possono scappare. Allora smettono di farlo e diventano cavalli sensati.» «Il tettuccio su li spaventa ancora. Come facciamo a tirarlo giù?» disse Laura. «Non è necessario, lasciamolo così. Stai solo attenta a non toccarlo quando scendi.» Il momento pericoloso, salendo e scendendo dal calesse, era l'istante in cui Laura si trovava tra la ruota anteriore e quella posteriore. Doveva essere più veloce dei cavalli e togliersi di mezzo prima che schizzassero via per non essere travolta. Quando Almanzo li fermò davanti a casa, lei si infilò con cautela sotto i bracci del tettuccio, badando a non toccarli, poi saltò giù rapidamente. Ma le gonne frusciarono e i cavalli scartarono e partirono di volata. Entrando in casa scoprì con un certo stupore di avere le gambe molli. Papà si voltò a guardarla. «Dunque, sei tornata sana e salva?» «Non c'è niente di pericoloso», disse Laura. «No, certo che no, ma sarò più tranquillo quando quei due cavalli saranno un po' meno selvaggi. Vai di nuovo domenica prossima?» «Penso di sì», rispose Laura. La domenica successiva i cavalli furono molto più tranquilli. Stettero fermi mentre Laura saliva, poi partirono di scatto, ma al trotto. Attraversarono il paese e puntarono verso nord, un miglio via l'altro, e dopo un po' ebbero il manto nero di sudore. Almanzo cercò con dolcezza di metterli al passo. «Se rallentate, ragazzi, fa più fresco», disse. Ma i cavalli non ne vollero sapere. «Oh, beh, se volete correre, correte, male non vi fa», aggiunse. «Che caldo», disse Laura, scostandosi rigida la fronte per farci passare sotto un po' d'aria. Era un caldo intenso e stranamente soffocante. «Possiamo tirare sul tettuccio?» disse Almanzo, ma con qualche incertezza nella voce. «Oh, no, lasciamo stare», esclamò Laura. «Hanno già abbastanza caldo così, senza che prendano la fuga, senza mettersi a correre.» Si corresse subito. «Sì, fa un po' troppo caldo per eccitarli ancora di più», riconobbe Almanzo. «Magari non gli fa niente, ma preferisco non rischiare se il sole non ti dà troppo fastidio.» Col passare del tempo i cavalli cominciarono a rallentare, ma continuavano a rifiutare di mettersi al passo, sicché andarono avanti al trotto ancora per un pezzo. Poi Laura disse che forse era il caso di tornare verso casa perché il tempo era strano. Il vento arrivava in brevi folate calde da ogni direzione e a ovest si stavano addensando grandi nuvole temporalesche. «Eh sì, sembra che debba piovere», disse Almanzo. Come presero la direzione di casa, i cavalli accelerarono, ma la strada era lunga. Minuscole trombe d'aria correvano sulla prateria, torcendo gli steli dell'erba, come se dita invisibili stessero mescolando qualcosa. «Diavoli di polvere», disse Almanzo. «Solo che la polvere non c'è, c'è solo erba. Dicono che portano uragani.» Le nuvole andavano montando e tutto il cielo aveva un aspetto tempestoso. Quando Laura arrivò a casa, il sole infilava rabbiosi raggi rossastri tra le nuvole nere. Almanzo scappò via per arrivare alla sua concessione e sistemare i cavalli prima della pioggia. Ma la tempesta indugiava. Venne la sera, cupa e opprimente, ma senza pioggia. Laura dormì un sonno agitato e si svegliò all'improvviso con una luce negli occhi. C'era mamma accanto al letto, col lume acceso, la stava scuotendo. «Presto, Laura! Alzati! Aiuta Carrie a raccogliere i suoi vestiti e venite subito di là, papà! Dice che c'è una brutta tempesta in arrivo!» Laura e Carrie presero i vestiti e seguirono mamma, che aveva tirato su Grace dal letto, aveva raccolto una coperta e stava già infilandosi nella botola della piccola cantina che papà aveva scavato sotto la cucina. «Dov'è, pa?» chiese Laura. Mamma spense il lume. «Fuori, sta guardando la nuvola. Farà in fretta a venire giù anche lui, se non ci siamo noi tra i piedi.» «Perché hai spento la lampada, ma?» disse Grace con una vocina quasi di pianto. Vestitevi come potete, ragazze, disse mamma. Non vogliamo il lume acceso, Grace, per non rischiare di appiccare il fuoco. Si sentiva il rombo del vento di sopra, con una nota strana dentro. Lampi di luce perforavano il buio e per un istante la cucina di sopra era illuminata a giorno. Poi l'oscurità tornava più nera di prima e pareva premere sugli occhi. Mamma vestì Grace, mentre Laura e Carrie si arrangiavano come potevano. Poi sedettero sul pavimento di terra, schiena alla parete, e aspettarono. Laura sapeva che era più sicuro là sotto, ma faceva fatica a reggere il senso di claustrofobia che le dava stare sottoterra. Avrebbe voluto essere fuori anche lei con papà, a guardare la tempesta. Il vento ruggiva, i lampi le schiaffeggiavano gli occhi con bagliori improvvisi. Di sopra, in cucina, la pendola ignara della tempesta batté l'una. Passò molto tempo prima che papà le chiamasse. Potete salire ora, Caroline. Il ciclone è passato più a ovest, tra qui e le Washington Hills. Oh, pa, non avrà mica preso la casa del reverendo Brown, disse Laura. No, dubito che la nostra casa avrebbe resistito se fosse passato così vicino, rispose papà. Intirizzite e anchilosate per essere rimaste sedute così a lungo sul pavimento umido della cantina, tornarono a letto. Per tutto agosto fece un gran caldo e ci furono molti uragani. Più volte mamma venne a svegliarle nel cuore della notte e le fece scendere in cantina mentre papà stava fuori a guardare che direzione prendeva la tempesta. In quelle occasioni il vento era spaventoso, ma era sempre vento teso e il peggio passava più a ovest. A dispetto dell'ansia e dell'agitazione di quelle notti orribili, Laura trovava lo stesso uno strano piacere nella forza indomita del vento, nella bellezza paurosa dei lampi, negli schianti del tuono. Ma la mattina dopo si alzavano stanche con gli occhi pesti. Papà disse: "Sembra che quel tanto di tempeste ci toccano sempre, se non è con le bufere d'inverno, è con gli uragani d'estate." "Non possiamo farci niente, tanto vale prenderle come vengono", disse mamma. Papà si alzò da tavola, stirandosi e sbadigliando. "Beh, ci sarà tempo per recuperare il sonno quando la stagione degli uragani sarà finita. Adesso c'è la vena da tagliare." E uscì per andare nel campo. Mieteva l'avena e il frumento ancora con la vecchia falce. Non aveva abbastanza soldi per comprare una mietitrice e non voleva indebitarsi. Questa storia di ipotecare quello che hai per comprare una macchina da $200 e pagare il 10% di interessi rischia di rovinare un colono, diceva. Lasciamolo fare ai giovani. Indebitarsi per comprare le macchine e dissodare fino all'ultima zolla di terra che hanno. Io ci lascio crescere l'erba e tengo le bestie. Dopo aver venduto la vitella di Ellen per mandare Mary all'università, era riuscito a comprare un'altra vacca. La vitellina di Ellen era cresciuta, erano nati altri vitelli e ora papà aveva 6 tra vacche e manze, più i vitelli dell'anno, sicché aveva bisogno di una grande quantità di erba e di fieno. L'ultima domenica di agosto al manzo attaccò al calesse soltanto Barnum. Il cavallo si impennò, ma quando tornò giù Laura era già saldamente seduta al suo posto. Arrivarono quasi in paese prima che Barnum si rimettesse al trotto. Allora al manzo disse: "Voglio addestrarlo a tirare il calesse da solo. È così forte e robusto e così bello che varrà molto di più da solo che in coppia, ma dovrà imparare a partire in un altro modo." "Sì, è proprio una bellezza", disse Laura, "e secondo me è anche di buon carattere. Lasciami provare a portarlo, voglio vedere se ce la faccio." Al manzo parve dubbioso, ma le passò le redini. "Tienilo corto, non lasciarti prendere la mano." Laura non aveva mai notato di avere le mani così piccole, ma ora, con quelle robuste redini di cuoio tra le dita, sembravano davvero minuscole. Se le sentiva minuscole, ma aveva le braccia forti. Svoltarono l'angolo di Pearson e fecero tutta Main Street a un trotto forsennato. "Hai visto come si giravano tutti a guardarti?" disse al manzo. "Non lo avrebbero mai detto che una donna può portare un cavallo come questo." Laura non vedeva altro che Barnum. Attraversò la ferrovia e continuò lungo Poverty Flat, la parte nuova del paese. Ma cominciava ad avere le braccia stanche e quando furono nella prateria aperta, cedette le redini ad Almanzo. "Mi riposo un po' le braccia, poi le riprendo." "D'accordo, quando vuoi, così mi riposo anch'io." Quando riprese le redini, Laura ebbe la sensazione che fossero animate. Sentiva attraverso le corregge di cuoio la bocca di Barnum, una specie di tremito che risaliva fino alle sue mani. Sembra che Barnum sappia che sono io a guidare, disse stupita. Certo che lo sa e non tira così forte. Guarda. Almanzo le prese le redini di mano, Laura le vide farsi immediatamente più tese, quasi volessero allungarsi. E con me appoggia di bocca, disse Almanzo. Lo sai, aggiunse cambiando argomento, che il tuo vecchio maestro Cluit mette su una scuola di canto? Laura non ne sapeva niente. Almanzo disse: Mi farebbe piacere che ci venissi con me, se ti va l'idea. Oh, mi piacerebbe moltissimo, certo, disse Laura. Bene, venerdì sera allora vengo a prenderti alle 7. Poi continuò: Deve imparare a stare al passo, non ne vuole sapere quando ha il calesse dietro. Forse pensa che se va abbastanza veloce può liberarsene. Lasciamelo tenere di nuovo, disse Laura. Le piaceva la sensazione della bocca di Barnum che risaliva lungo le redini fino alle sue mani. Ed era vero che quando guidava lei non tirava così forte. È un cavallo di buon carattere, disse, anche se sapeva che lo consideravano tutti di pessima indole. Per tutto il pomeriggio fecero a turno a guidare. Prima di lasciarla davanti a casa, Almanzo disse: Venerdì sera, alle 7. Lo attacco da solo e può darsi che faccia il pazzo, quindi tieniti pronta. La scuola di canto. L'indomani era il primo giorno di scuola. Ora c'era una nuova scuola in Third Street, un edificio di mattoni a due piani, con due aule e due maestri, e di sotto stavano i piccoli e di sopra i grandi. Laura e Carrie erano tutte e due al piano di sopra. Senza i piccoli, Laura sembrava stranamente grande e vuota, anche se i banchi erano quasi tutti occupati da ragazzi nuovi che loro non conoscevano. Erano rimasti liberi solo alcuni posti in fondo, ma anche quelli si sarebbero riempiti con l'arrivo della stagione fredda, quando non c'era più da fare in campagna e sarebbero venuti a scuola anche ragazzi e ragazze grandi. Durante l'intervallo, Aida e Laura andarono alla finestra a guardare i piccoli e le piccole che giocavano in cortile e a chiacchierare con Mary Power e Minnie Johnson. Aida ed Elmer si erano iscritti anche loro alla scuola di canto e così pure Minnie e suo fratello Arthur e Mary Power e il suo nuovo innamorato Ed. Chissà come mai Nellie Olson non è venuta a scuola oggi, disse Laura. Non lo sai? Rispose Aida. È tornata nello stato di New York. Davvero? Sì, è andata a vivere con dei parenti e sai che ti dico? Scommetto che sarà sempre lì a vantarsi di com'è bello vivere all'Ovest, disse Aida. E tutte scoppiarono a ridere. Una delle ragazze nuove era rimasta seduta al suo posto tra i banchi vuoti. Era bionda, alta e slanciata e aveva l'aria un po' triste. Laura pensò che doveva sentirsi intimidita ed esclusa. Loro erano tutte lì a chiacchierare e a ridere insieme e lei era là sola, senza nessuno con cui parlare, come era stato una volta anche per Laura. Quella ragazza nuova ha l'aria simpatica, bisbigliò Laura alle amiche. Vado a parlare un po' con lei. La ragazza si chiamava Florence Wilkins. Suo padre aveva una concessione a nord-ovest del paese e lei voleva diventare maestra. Dopo qualche minuto, anche le altre ragazze vennero tutte lì intorno. Florence disse che non poteva frequentare la scuola di canto perché abitava troppo lontano. Venerdì sera, alle 7 in punto, Laura era pronta sulla soglia col suo abito color castagna e il cappello di velluto marrone. E alle 7 in punto arrivò Almanzo. Barnum si fermò e Laura fu così lesta a salire che Almanzo riuscì a farlo ripartire prima che si impennasse. È la prima volta, disse Almanzo. È meno pronto a impennarsi ora. Forse tra un po' si dimentica di farlo e smette del tutto. Forse, disse Laura, non molto convinta, e poi aggiunse, citando il proverbio, con i forse non si va lontano, però. La scuola di canto si teneva in chiesa. Entrando in paese, Almanzo disse che conveniva uscissero un po' prima degli altri perché Barnum non si agitasse troppo a vedersi tanta gente intorno. Quando ritieni sia ora, esci e io ti seguo, disse Laura. Almanzo legò Barnum a uno dei pali opposti ed entrarono nella chiesa tutta illuminata. Lui aveva pagato l'iscrizione per entrambi e acquistato il libro dei canti. Erano già tutti lì e il signor Cluit li stava dividendo in gruppi a seconda della voce, bassi, tenori, soprani e contralti. Per prima cosa spiegò la scala musicale, nome e valore delle note, corone, legature, pause, chiavi di basso, di tenore e di violino. Poi ci fu un breve intervallo e bassi, soprani, tenori e contralti si mescolarono, chiacchierando e scherzando finché il signor Cluit li richiamò all'ordine. Nella seconda parte della lezione si esercitarono a cantare le scale. Il signor Clewitt dette la nota col diapason 1, 2, 3 volte e quando quasi tutte riuscirono a prendere quasi la stessa nota, cominciarono a cantare scale ascendenti e discendenti. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E poi al contrario. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Continuarono così, su e giù, a volte imbroccando le note, a volte no, ma sempre tutti pieni di buona volontà. Laura si era seduta in fondo al banco e teneva d'occhio al manzo, e quando lo vide andare silenziosamente verso la porta, si alzò anche lei e lo seguì. Avvicinandosi al calesse, lui disse: Ti faccio salire prima di slegarlo. È probabile che si impeni quando si sente libero, ma non prima, se non tiri le redini. Tienile bene, ma non muoverle finché non parte. Cerco di saltare su prima che scatti via, ma se non ce la faccio, devi tenerlo tu. Lascialo pure andare, ma non farti prendere la mano. Fagli fare un giro attorno alla chiesa e torna qui. Non avere paura, sei in grado di tenerlo, lo sai, lo hai già fatto. Laura pensò che a dire il vero non l'aveva mai fatto in partenza, ma non disse nulla. Salì e afferrò saldamente, senza muoverle, le redini posate sul cruscotto. Al manzo slegò Barnum. Nell'attimo in cui ebbe la testa libera, il cavallo si impennò e un secondo dopo era a terra e partiva come un fulmine, dando uno strappo tale al calesse che le ruote si sollevarono da terra. Laura tenne le redini ben salde, Barnum si era lasciato la chiesa alle spalle e puntava a tutta velocità verso la prateria aperta, ma lei cominciò a tirare più forte col braccio destro che col sinistro e con suo sollievo lo vide piegare da quella parte. Descrissero un ampio cerchio con la chiesa al centro e quando furono sul lato giusto, Laura cominciò a tirare tutte e due le redini allo stesso modo. Ma Barnum non si fermò e passarono di volata davanti ad Almanzo che era là fermo. Nel momento in cui il cavallo era scattato via, anche il cuore di Laura aveva fatto un gran balzo, tanto che se lo sentiva pulsare in gola. Ora erano di nuovo nella prateria aperta. Cominciò a tirare la redine destra e Barnum piegò da quella parte e quando furono sul lato giusto, Laura si mise a tirare con tutte le sue forze. Barnum rallentò, fu quasi sul punto di fermarsi, poi con una mezza impennata schizzò via di nuovo. Ma ora Laura non aveva più il batticuore. Descrissero di nuovo il cerchio e questa volta Laura si sollevò un poco dal sedile per tirare con più forza e Barnum si fermò. Poi si impennò immediatamente, scattò avanti e riprese a correre. D'accordo, corri, pensò Laura. Gli fece descrivere un cerchio molto ampio e quando di nuovo si sollevò sul sedile e tirò con tutte le sue forze, Barnum si fermò un attimo e Almanzo riuscì a saltare su. In quella la porta della chiesa si aprì e i cantori si riversarono fuori. Qualcuno gridò: Serve aiuto? Barnum si impennò, scattò avanti e quando le zampe toccarono terra stava già filando a tutta velocità. Le mani di Almanzo presero le redini appena più avanti di quelle di Laura e scivolarono indietro mentre lei lasciava la presa. Fu contenta di cedergliele. Appena in tempo, disse lui. Non ce l'avremmo mai fatta ad andarcene se tutta quella gente fosse stata lì attorno. È stata dura? Laura tremava, aveva le mani irrigidite, faceva fatica a non battere i denti, sicché disse solo no. Almanzo parlò a Barnum per qualche istante e poco dopo riuscì a metterlo al trotto. Allora Laura disse: Non voleva far niente di male, penso fosse solo stufo di stare lì fermo ad aspettare. Altro che stufo, era furibondo, disse Almanzo. La prossima volta usciamo all'intervallo. Poi aggiunse: Facciamo la strada lunga, è una sera così bella. Fece imboccare a Barnum la strada che attraversava l'estremità occidentale di Big Slough. La brezza soffiava sull'erba della prateria e sopra la terra, immersa nell'oscurità, palpitavano milioni di stelle. Barnum ora trottava tranquillo, come se anche lui apprezzasse la quiete della notte e lo splendore del cielo. Che stellata stasera! Mormorò Almanzo. Allora Laura cominciò a cantare dolcemente a mezza voce. Tutta è stellata la volta del cielo. E noi andiamo in serenità, non c'è in tutta la luce del giorno uguale momento di felicità. Come le creature del bosco, l'ombra ci è casa e ci è manto, e dolce la nota dal labbro si leva che la notte è fatta per il canto. Ora che nessuno è d'attorno e siamo soli io e te, tutta è stellata la notte, tutta è stellata per me e per te. Barnum si fermò davanti alla porta e mentre Laura scendeva non si mosse. Almanzo disse: Vengo a prenderti domenica pomeriggio. Mi farò trovare pronta, rispose lei, ed entrò in casa. Papà e mamma la aspettavano. Mamma sospirò di sollievo e papà chiese: E come si comporta di notte quel demonio di un cavallo che si è preso Wilder? Ma no, è di buon carattere, disse Laura. È stato buono mentre scendevo, mi piace. Mamma si tranquillizzò, ma papà le lanciò un'occhiata inquisitoria. Laura però non aveva detto bugie, era tutto vero. Che avesse guidato Barnum, anche lei e tutto il resto lo aveva semplicemente taciuto. Sarebbe servito solo a spaventarli e magari per il futuro glielo avrebbero proibito, ma a lei piaceva guidare Barnum. Quando si fossero abituati l'uno all'altra, forse sarebbe riuscita a farlo diventare docile davvero.